cammino nella giungla, non so chi incontrerò, ascolto gli animali, quale oggi scoprirò. Shh, sento un serpente! Striscio come cammino nella giungla, non so chi incontrerò, ascolto gli animali, quale oggi scoprirò.